si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, siamo insieme fino alle 10. 349-238-6666 se volete scriverci per commentare per esempio quello che tra poco andremo a leggere sui giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8, poi inizieremo subito dopo con i nostri approfondimenti con Si può fare, la pagina di Si può fare trattino Radio 24 su Facebook, l'account su Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio account è chiocciola Ale Maurizi. Andiamo a iniziare sui giornali, vai! E allora, i giornali di oggi che dedicano molte pagine, ampio spazio alla figura di Carlo Azeglio Ciampi, il presidente emerito a questo punto della Repubblica dal 99 al 2006, che ieri ci ha lasciato all'età di 95 anni dopo aver trascorso qualche tempo in una clinica per un breve ricovero. Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi tempi, appunto. Poi c'è spazio però sui giornali anche per il vertice di Bratislava, con quello che alcuni giornali definiscono lo strappo di Renzi o l'umiliazione anche di Renzi, che si è presentato in conferenza stampa da solo senza far parte invece dell'altro punto stampa che hanno fatto la Merkel e Hollande, quindi la rinascita dell'asse franco-tedesco che esclude l'Italia e anche le richieste dell'Italia in sede europea. Cominciamo con per esempio il Corriere della Sera che scrive strappo con Berlino e Parigi, Merkel e Hollande chiudono da soli il Premier, la Germania non rispetta le regole sul commercio, divisi sui migranti e crescita, Renzi sfida l'asse franco-tedesco, non c'è accordo. Questo per dire un titolo, poi la stampa, l'Europa, lo strappo di Renzi, Repubblica, Unione Europea, rottura su migranti e austerity, Renzi no a Merkel e Hollande. Ne parleremo tra poco, adesso invece andiamo su, vediamo che parole hanno scelto i giornali per salutare Carlo Azeglio Ciampi. Il Sole 24 Ore sceglie Ciao Carlo Azeglio, un titolo confidenziale, quasi confidenziale, 1920-2016, la data di nascita e di morte di Carlo Azeglio Ciampi. Il Corriere scrive il presidente degli italiani che amò l'Europa, Repubblica con sempre tutti naturalmente con la foto di Carlo Azeglio Ciampi con suo consueto sorriso, che era anche un tratto della sua personalità, un sorriso rassicurante. Ciampi, scrive Repubblica, l'orgoglio di essere italiano, e anche su questo elemento patriottico ci sono dei commenti su questo elemento, sì esatto, questa è la parola patriottico, di un uomo che amava la sua patria, avendo fra l'altro anche combattuto alcuni anni in guerra. C'è anche un ricordo personale inizialmente deluso anche da come si concluse la seconda guerra mondiale con la firma con l'8 settembre e l'armistizio, però da lì una lunga rinascita di una sua fiducia negli italiani, nell'Italia. La stampa scrive addio a Ciampi, il presidente di tutti. Il Fatto Quotidiano scrive invece addio a Ciampi, l'ultimo presidente che diceva no. Il riferimento è, e viene scritto nel sottotitolo, respinse alcune leggi di Berlusconi, invitò Re Giorgio, napoletano sottinteso naturalmente, ad imitarlo. Quindi il riferimento è al fatto che Carlo Azeglio Ciampi rispedì 6 leggi mi pare nel suo settennato, cinque anni li trascorse su 7 avendo a Palazzo Chigi come inquilino Silvio Berlusconi, con il tema del conflitto di interessi, il tentativo di riformare, per esempio, quindi la legge Gasparri fu una di quelle che venne rimandata, rispedita al mittente per essere modificata, il tema del confronto con la magistratura che fu sempre al centro dell'azione di governo di Berlusconi, e anche quella riforma lui rimandò indietro e respinse, e quindi il fatto sottolinea questo aspetto. Morto Ciampi, scrive il giornale, l'uomo che fece e inguaiò il paese. Alessandro Sallusti sceglie invece questo aspetto della figura di Ciampi, l'uomo dell'euro, l'uomo che da ministro del tesoro accompagnò l'Italia nell'ingresso nell'euro. E questo è il modo in cui il giornale Libero, che non hanno un titolo principale sulla morte di Ciampi, solo l'editoriale per quanto riguarda il giornale e un trafiletto a centropagina, sul lato pagina Libero, che scrive: la morte di Ciampi, tutto fumo e niente a posto, il disastro euro ha la sua faccia, scrive Franco Bechis. Vediamo invece, cominciamo proprio da qua allora, visto che siamo sul giornale, Alessandro Sallusti, abbiamo detto morto Ciampi, l'uomo che fece inguaiò il paese. Carlo Azeglio Ciampi è morto ieri all'età di 95 anni, tra l'altro politicamente questa posizione corrisponde all'unica posizione emersa ieri dissonante sul coro di plauso alla figura di Ciampi, che è quella di Matteo Salvini della Lega, che ha detto umanamente mi dispiace, come quando muore qualcuno, ma politicamente addirittura Salvini ha usato questa espressione: Ciampi è un traditore. Salvini, coerentemente con la sua battaglia anti-euro per l'uscita dell'Italia dall'euro, una battaglia che forse per certi aspetti è fantascientifica, ma insomma, se guardiamo quello che è successo in Gran Bretagna, non è neanche del tutto vero, e quindi coerentemente in questa posizione prende le distanze dal Ciampi, uomo dell'euro e dell'Europa. Scrive Sallusti su questa scia, quindi: Carlo Azeglio Ciampi è morto ieri all'età di 95 anni, tra gli anni 80 e 2000, è stato praticamente tutto: governatore della Banca Italia, presidente del Consiglio, ministro del Tesoro, con Prodi fino al 2006, presidente della Repubblica, eletto alla prima votazione su proposta di D'Alema o anche di Veltroni, come scrivono lui stesso, Veltroni intervistato oggi mi pare su Repubblica, lo vedremo, anche con i voti del centrodestra. Non ha mai avuto tessere di partito, pur essendo uomo di sinistra. Al Quirinale ha sdoganato il tricolore, l'inno di Mameli, la parola patria. Ciampi, pur non essendo stato un costituente, appartiene alla generazione dei padri della patria. Da scienziato dell'economia si fece prendere la mano dalla politica, che poco masticava. Forse Ciampi credeva, come molti suoi coscritti, che l'interesse e le ambizioni dello Stato coincidono sempre con quelli dei cittadini, una visione elitaria e tecnicistica della politica che ha provocato solo disastri. È un fatto che dal giorno in cui Ciampi e Prodi misero la firma che ci faceva entrare nell'euro, a quelle condizioni l'Italia ha smesso di crescere e non si è più ripresa. La sua presidenza della Repubblica fu tutto sommato scialba, rivalutazione della patria a parte. Non amò i governi Berlusconi e fece qualche sgambetto al centrodestra, ma se pensiamo che prima di lui c'era Oscar Luigi Scalfaro e dopo di lui venne Giorgio Napolitano, possiamo parlare di un raggio di sole al Quirinale, e di questo lo ringraziamo. Però poi nel titolo l'uomo che inguaiò il paese. Comunque il motivo l'avete appena sentito, inguaiò il paese per la questione dirimente per molti italiani ancora oggi dell'euro, e questo è il giornale. Andiamo invece per esempio a vedere commenti di tenore opposto, che non sono tanto un'esaltazione politica, per esempio come fa Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, quanto un'esaltazione della figura umana, professionale, personale dell'uomo, su cui credo su questo aspetto ci sia poco da dire, poco da dissentire rispetto a una figura veramente da altri tempi come quella di Ciampi. Scrive De Bortoli: è la migliore intervista che ho fatto. Quale presidente? Non l'ho letta. È un colloquio tra lui e Ciampi. Aveva l'aria, non l'ho letta e forse non la leggerà mai, rispose Ciampi. Aveva l'aria quasi divertita Ciampi nel suo ufficio di senatore a vita, pochi mesi dopo aver lasciato il Quirinale. Quella mattina era soddisfatto di aver portato che cosa? A termine un compito gravoso: rilasciare all'archivio di Stato un resoconto dettagliato con tutti i documenti e gli appunti personali dei suoi 7 anni al Colle. questo è l'episodio. Ciampi, che aveva appunto appena rilasciato all'archivio di Stato gli appunti del suo, dei suoi 7 anni di presidenza della Repubblica. L'etica repubblicana, qui è il commento dell'ex governatore della Banca d'Italia, diventato politico per necessità del paese, non sua, presidente della Repubblica dal 99 al 2006, imponeva l'assolvimento scrupoloso di ogni incombenza, anche la più piccola, con meticolosità calvinista. La sindrome della scrivania vuota la sera, pulita, senza cose da evadere, in banca, una volta. Si faceva così. In estrema sintesi, senso del dovere e grande rispetto delle istituzioni, istituzioni che Ciampi ha servito sentendosene onorato e mai occupato con sufficienza o persino con disprezzo, come gli capitò di notare negli anni in cui dovette contenere il berlusconismo più rampante e anche un certo pressappochismo della sinistra di governo. Una disciplina quasi militare, scrive De Bortoli, la sua esercitata alla scuola della Banca d'Italia. Palazzo Koch era, ed è, una roccaforte del rigore quasi estranea al costume italiano, una eccellenza nazionale che suscita più invidia e sospetti che ammirazione e gratitudine. Chiude De Bortoli a questo passaggio così: aveva un metodo di lavoro prussiano, mi concentro, diceva Ciampi, su una cosa alla volta, con calma. E capite che un uomo così aveva queste caratteristiche di grande scrupolosità, quasi calvinista, quasi prussiano, che però, questo diciamo, non ho letto commenti su questo aspetto, forse meno importante della sua personalità, ma credo che spieghi invece il suo sorriso, spieghi molto anche del fatto che gli italiani lo amassero abbastanza, molto forse, a parte il discorso politico sull'euro eccetera, perché aveva quest'aria di serietà, di severità, ma anche di grande umanità, che è un tratto che insomma non guasta nei politici, ma in generale. Ancora qualche dettaglio sulla commenti sulla vita di Ciampi, per esempio, se lo trovo. Ah, vabbè, questo è un passaggio che riguarda la sua elezione, per esempio. La sua elezione, l'intervista a Walter Veltroni, che ricorda: il governo Prodi era caduto da un anno, ci voleva una soluzione che non creasse problemi al governo D'Alema, assicurasse stabilità e fosse forte e prestigiosa. Marini, Franco Marini, ricorderete, la voce circolò, ma nessuno poi ne parlò. Io pensai fin dall'inizio a Ciampi, con l'assoluta solidarietà. Per esempio, il Giorgio Napolitano, telefonai a Carlo, glielo feci poi trapelare il progetto su un giornale. Ciampi fu scettico e ironico fino alla fine, conoscendo il sistema dei partiti. E poi, dice ancora Veltroni, D'Alema, che se ne disse, fu solidale, come pure Romano Prodi, che informavo costantemente. Invitai una mattina a casa mia, questa è il retroscena, già raccontato altre volte, Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini, che condivisero l'idea di cercare, pur nella durezza dello scontro di quegli anni, la soluzione condivisa. Un'altra cena con D'Alema e Castagnetti per i popolari chiuse il quadro. Poi chiamai anche Gianni Letta, mi arrivò una risposta positiva di Berlusconi via Letta, quindi Ciampi venne eletto al primo voto. E questa è una cosa che viene ricordata in queste ore molto, perché basta vedere quello che è accaduto con le ultime voti presidenziali, quando non si riuscì a trovare un nuovo presidente, si dovette ricorrere a Napolitano, poi Mattarella. Ciampi è stato forse l'unico, il primo, un caso raro di presidente eletto, pam, così, al primo colpo. E questo era il ricordo di Walter Veltroni da questo punto di vista. Ci fermiamo per una brevissima pausa sul traffico, poi torniamo ancora sui giornali con i ricordi di Ciampi e anche magari qualche altra notizia. Allora, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizio, ascoltatori, e ritorniamo sui giornali di oggi. Ancora qualche dettaglio della vita di Carlo Azeglio Ciampi, qualche retroscena, insomma, no, sono cose che sono già state raccontate, anche elementi della sua personalità, per esempio nel ricordo di Roberto Napolitano, direttore del Sole 24 Ore, che oggi, sotto il titolo che abbiamo già ricordato, Ciao Carlo Azeglio, scrive... E parte da un ricordo personale recente. Pensa, cioè lo ricordo per prima, dalla telefonata avuta con la moglie Franca. Pensa, lunedì avremmo festeggiato i 70 anni di matrimonio. Le avevo detto: Carlo, faremo una cosa intima tra di noi. Mi dice così la signora Franca al telefono e aggiunge: tu lo conosci bene, devi dire quello che sai, devi dire che era una persona per bene. La signora Franca, scrive Napoletano, si esprime con il suo linguaggio diretto, fatto di imperativi affettuosi, e ha ragione. Carlo Azeglio Ciampi era prima di tutto una persona per bene, ed è questo il primo tratto della sua personalità che ricorda Roberto Napoletano, che coincide anche con, abbiamo appena letto prima, di il ritratto di De Bortoli, cioè questa personalità al limite proprio della maniacalità anche nel modo in cui assolveva i suoi compiti al suo lavoro. C'è un aspetto che è stato ricordato in queste ore che riguarda, diciamo, dal punto di vista più politico, più generale, la figura di Ciampi, ed è quello della riscoperta della patria, della riscoperta di un sentimento di nazione condiviso, cosa che, di paese forse più che di nazione condiviso, cosa che non è sempre stata così, non è sempre stata scontata, forse non lo è neanche oggi. Ma scrive per esempio Umberto Gentiloni su Repubblica: il figlio della guerra che fece riscoprire la parola patria anche a sinistra. Durante il settennato rese omaggio a tutte le resistenze nel segno dell'unità nazionale. Inizia con una citazione di lo stesso Ciampi: ho scoperto la patria dopo l'8 settembre, l'ho scoperta nella mia coscienza, non credo di essere stato un caso isolato, sono diventato patriottico quel giorno. E, arrivato in Italia dall'Albania, dove era stato in guerra, maledivo la sorte che mi aveva fatto tornare. Sarei volentieri rimasto a seguire il mio colonnello, non sapendo che non aveva ricevuto ordini e che tutti i miei commilitoni furono prima lasciati allo sbando e poi abbandonati al loro crudele destino. Così Carlo Azeglio Ciampi raccontava il punto di partenza della sua missione più difficile, quella di una generazione figlia della cesura del secondo conflitto mondiale, un conflitto interrotto con l'armistizio 8 settembre e che lasciò disorientati tutti coloro che si trovano in quel momento a combattere per la patria. Ma quello fu il punto di svolta, prosegue l'articolo, nella rottura di una falsa alternativa che aveva condizionato comportamenti e dialettiche. Da un lato una lunga ipoteca del fascismo su simboli e linguaggi della nazione e dall'altro la presa di distanza delle culture politiche della sinistra segnate dal fascino globale di un profilo internazionalista, uno spazio stretto che Ciampi se lo prese tutto, definisce, difende e qualifica a partire dalla valorizzazione della stagione della resistenza declinata in modo nuovo, diverse forme di resistenza civile che affiancano e si affiancano alle scelte dei partigiani. E insomma, questa è la sfida patriottica portata avanti da Ciampi, sì, che poi in un altro passaggio, in un altro articolo, questa volta Marzio Breda, quirinalista del Corriere, un altro piccolo ricordo, una intervista a Ciampi che viene riproposta e racconta uno dei momenti della fase declinante della vita di Ciampi. Scriveva Ciampi: di cosa parlavate quando si incontrava con Wojtyla? Perché lui aveva stretto una relazione con il Papa, Di tutto, della vita, della fine della vita. Quando cominciò a stare sempre peggio, un giorno mia moglie Franca, con una delle sue uscite, diciamo così, estroverse, gli disse: santità, prego spesso per lei. Mi intromisi subito per compensare quella che mi sembrava una esagerazione. Santità, io la penso spesso. E a quel punto fu lui a parlare con i gesti. Si passò la mano sul cuore come per farci intendere: io vi ho qua dentro il suo cuore, di Wojtyla, ovviamente. Poi, al momento di accomiatarmi, aggiunsi: santo padre, abbiamo la stessa età. Se lei dovesse morire prima di me, mi promette che mi verrà incontro, che verrà a prendermi, che non mi lascerà solo quando giungerà la mia ora? E questo è un ricordo particolare anche del modo in cui Ciampi visse l'ultima stagione della sua vita e questo rapporto particolare che ebbe con Wojtyla. Abbiamo ancora poco tempo, dedichiamolo anche intanto a leggere qualche i titoli abbiamo letti sullo strappo di Renzi con Berlino e Parigi, così scrive il Corriere. La Repubblica: Unione Europea, rottura su migranti e austerity, Renzi no a Merkel e Hollande. Questo è il tenore anche di altri titoli. Il Sole 24 Ore: vertice europeo, lite su crescita e migranti, Renzi, siamo distanti dalla Merkel e da Hollande. Sulla Stampa lo strappo di Renzi e leggiamo qualche passaggio, qualche Troscena, insomma, Renzi ha spiegato in conferenza stampa che ci sono delle divergenze con la Germania e con la Francia, ecco perché non potevo tenere una conferenza stampa con loro insieme. Le divergenze sono sulla crescita, in particolare anche sulla gestione dei migranti. A microfoni spenti, raccontano alcuni retroscena qua sulla stampa, spiega: non possiamo continuare a mascherare le politiche del rigore chiamandole in un altro modo. Davanti alla difficoltà di far quadrare la legge di stabilità, Renzi potrebbe decidere di andare avanti anche mettendo nel conto il diniego di Bruxelles, si domanda la stampa. Una sfida esplicita all'Unione Europea? Ieri in conferenza stampa il Presidente del Consiglio ha fatto esplicito riferimento alla violazione delle regole comunitarie consumate dai due paesi guida, Germania e Francia, la prima con il surplus nell'export, la seconda nel rapporto deficit-PIL. Cioè Renzi ha ricordato che Francia e Germania violano le regole europee, no? E quindi questo cosa lascia intendere? Che anche l'Italia le violerà per quanto riguarda la flessibilità sui conti? È possibile. Infatti, prosegue la stampa domandandosi: è questo un escamotaggio per aprire una trattativa più o meno esplicita? Ieri mattina, a margine del vertice, Renzi si è visto con il presidente della commissione Juncker e l'incontro sul tema della flessibilità è andato bene. Cioè ci sarebbe una sponda della commissione sull'Italia a coprire un eventuale sforamento sui conti, così come, detto ieri Renzi, la Germania per esempio sfora sul discorso del surplus della bilancia commerciale. Abbiamo un minuto? Un minuto, beh, possiamo chiudere con questa cosa che è Pescara e gli alberi di Pescara, il sindaco di Pescara che sta tagliando gli alberi perché sono malati, ma contro di lui si stanno levando gli scudi. Associazioni ambientaliste, coalizzate, militanti ecologisti che abbracciano i tronchi, si sdraiano davanti alle motoseghe, petizioni online, esposti alla magistratura e da ultimo la mobilitazione di alcuni intellettuali, tra cui Henry De Luca e l'attore Alessandro Gassman, che definire un intellettuale è un bel regalo, ma insomma è comunque un uomo di cultura. I comitati adesso puntano su Adriano Celentano. Alessandrini, il sindaco, si difende così: mi pare una follia. Prima che esplodesse questo circo Barnum mi arrivavano dai cittadini decine di segnalazioni di piante pericolanti. Ho una relazione scientifica davanti. A Pescara abbiamo 13.000 alberi, 121 sono stati classificati in categoria D, piante con pericolo imminente di caduta. Secondo i poeti, gli attori e gli ambientalisti dovevo mettere quella relazione nel cassetto? No, secondo il sindaco quegli alberi vanno tagliati. Ma le proteste ci sono e ci saranno. Ci fermiamo, c'è il giornale radio, ci sentiamo subito dopo Non si può fare. Ciao, a dopo. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. So don't stop, stop. Under the lights when everything goes. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance. Buongiorno, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, 8 e 20 minuti, eccoci qua. 800 24 00 24, vi aspettiamo anche questa mattina per stare insieme a noi e per, se volete dire la vostra, anche come la pensate, per esempio, su Carlo Azeglio Ciampi. Figura condivisa, grande presidente condiviso, ma c'è stato anche chi ha detto traditore per la questione dell'euro, perché in effetti Ciampi è stato quell'uomo là, uno c'è stato fondamentalmente, direi, giusto? Che ha detto traditore, perché sì, mi sembra unanime il cordoglio e la vicinanza nei confronti di Ciampi. meno uno che è nato del traditore nel giorno della morte, che diciamo con poca eleganza, se però possiamo dire. Sì, questo sì, però fa impressione che ripensare oggi le parole di Ciampi sull'Europa, parole rassicuranti, parole, erano altri anni, sono passati 15 anni, c'era un'aria meno negativa, meno pesante attorno all'Europa. Chissà oggi Ciampi come avrebbe, se sarebbe riuscito in qualche modo a portare quest'aria invece fresca sull'Europa, oppure se il vento è talmente pesante anche per uno come lui sarebbe stato difficile far cambiare rotta. Sicuramente più difficile, dici adesso, nel senso che là sembrava tutto rigoglioso, adesso sì, che c'è questa crisi nera uno dice forse era meglio scappare dall'Europa. Poi ricordiamoci comunque in questo momento essere con le lire in tasca, non so esattamente come sarebbe. Poi 800 24 00 24, tra poco invece di lire in tasca parliamo di zaini leggeri, perché parliamo di un progetto che riguarda molte scuole italiane, forse anche qualcuno ha meno euro. Io pensavo questo, sì, zaini leggeri nel senso che quando c'erano le lire e i soldi uno portava tanti soldi, adesso i soldi sono finiti e quindi uno porta 1,50 euro nello zaino che pesa leggero, poco, che pesa poco, perché anche questo è un problema, lo zaino. Troppo un tempo c'era l'abecedario e poi sono arrivati i libri specialistici su tutte le varie materie, musica, tecnica, laboratori, religione, quanti libri oggi ci sono, e si è passati dallo zainetto alla allo valigia, zainone, al però trolley. Esiste il formato digitale, quindi forse fra un attimo uno avrà un bel e-reader nello zaino con dentro tutti i titoli più specifici del mondo. Però insomma lo zaino a scuola crea problemi. 800 24 00 24, tra poco ne parliamo. E poi avremo con noi anche il segretario del Garante per la Privacy per vedere se ci sono sprazzi sulla questione dei video sessuali pubblicati in rete, il caso di Tiziana Cantone. Non entreremo nel merito di questa vicenda, è stata già abbondantemente raccontata, forse anche troppo, però, soprattutto perché si tratta di una storia che avrebbe avuto bisogno dell'oblio e adesso di oblio ne ha pochissimo. È un brutto paradosso. 800 24 00 24, vi aspettiamo. E poi c'è il Cloud Me Up nella seconda ora. Oggi lanciamo lanciamo una versione nuova. Sì, siamo un po' emozionati, sì, un perché po' tesi. Vogliamo coinvolgervi, ascoltatori. Vogliamo farvi eleggervi in qualche modo giudici dei progetti che cercano il finanziamento dal basso. Quindi il vostro aiuto, il nostro aiuto per progetti, startup, idee innovative, eccetera, eccetera. Vi chiediamo, poi insomma, vi spiegheremo quali sono i progetti, di chiamare e di fare un po' da giuria popolare. Non si vince niente, chi lo sa. Poi invece magari si vincerà anche qualche gadget, la popolarità in peritura per esempio. Nessun oblio, essere per sempre nel podcast di Radio 24 senza avere la possibilità di cancellarsi, per esempio magari dire una stupidata colossale in diretta il sabato mattina. Esatto, la possibilità di dire la vostra su questi progetti, che sono anche delle cose interessanti che si agitano nel nostro mondo. 800 24 00 24, questo però nella seconda ora. Adesso iniziamo, vai. You said I come in peace, so I took you home. I gave you food and I gave you clothes. I thought you had a movie feed when the rhythm's on. Still you wanna leave cause you feel alone. So your fantasy life. I know you must be upset. You lost your family in a wreck. But you gotta listen. Don't try to find your spaceship. They might be out there waiting. Stay in my backpack forever. Stay in my backpack forever. You know I gotta fly my spaceship. E allora diamo il buongiorno e il benvenuto a Marco Orsi, ideatore del modello Scuola Senza Zaino. Lui è un ex dirigente scolastico che nel 2002 si è inventato questo progetto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sono sempre dirigente scolastico. Ah, ecco, appunto, è sempre dirigente scolastico, meglio così. Da poco all'università, ma il prossimo anno rientro. È un dirigente scolastico senza zaino? Sì, sono senza zaino. E senza scuola al momento, visto che è all'università. Al momento senza scuola perché aiuto i docenti dell'università a insegnare agli studenti a diventare maestri. Sì. Ah, però. Ah, insomma, però. Senta, eliminiamo quindi gli zaini anche dall'università? Sarebbe bello, perché guardi, l'università ha delle aule strutturate in modo ottocentesco, dove non si possono fare nemmeno i laboratori, pensi un po'. Eh sì, a volte sì, magari non sempre, però spesso sì. Sembra una cosa da ridere questa qua della scuola senza zaino, però cioè, è un progetto che riguarda oggi quante scuole? Oltre 100, vero? Allora, scuole, in Italia le chiamiamo con questo nome strano, plessi, sono 194. Sì. E raccolte in 106 istituti. E fra l'altro voi avete anche avuto il riconoscimento della Regione Toscana per questa iniziativa. Sì, la Regione Toscana da qualche anno ci dà un sostegno per fare formazione e per realizzare almeno 100 di queste scuole proprio in Regione, in Toscana. Mm. Sì. Ma come funziona la scuola senza zaino? Cioè, qual è l'obiettivo e il punto di partenza di questo, che si intuisce, insomma, no? La questione della pesantezza, sì, sì, credo. No, il concetto di fondo è questo, che normalmente come lavoratori noi non andiamo sul posto di lavoro e ci portiamo tutto il materiale dentro lo zaino, perché ci troviamo nel posto di lavoro che è tutto attrezzato. Questa cosa invece non avviene per i ragazzi, gli studenti, i bambini. Allora noi togliamo lo zaino e allestiamo le aule scolastiche, e le allestiamo in aree di lavoro, faccia conto come una redazione di un giornale, e cerchiamo di dotarle di tutti gli strumenti che servono, per cui i bambini e i ragazzi hanno una piccola cartella solo per i compiti a casa. Lei diceva nell'introduzione del peso dei libri, no? Ma si pensi che a giugno in quinta elementare i bambini hanno di libri circa 500 pagine, dopo due mesi entrano in prima media ce ne hanno 5.000. Un bel salto, eh? 5.000 nello zaino tutte le mattine? 5.000, beh sì, a volte le portano dipende, se hai tutte le materie delle 10-12 materie che hanno. Però allora, quindi mi scusi, il bello del progetto è che non solo, nel senso che giustamente anche per comunicazione, scuola senza zaino, si parte dall'idea di avere uno zaino più leggero, ma in realtà si arriva a modificare la didattica. Giusto? Sì, esattamente, perché appunto dicevo, dividiamo, organizziamo l'aula in aree di lavoro, e questo ci consente una congruenza con metodi didattici innovativi, nel senso che facciamo lavorare gli studenti ad esempio in coppia o in piccoli gruppi, anche individualmente. E abbiamo aree deputate a varie attività, non so, mettiamo un piccolo laboratorio di informatica, un altro laboratorio di manipolazione, poi abbiamo i tavoli per il lavoro di gruppo. È una dimensione abbastanza variegata rispetto alla situazione tradizionale della cattedra e dei fili e delle file di banchi. Sì. Ma infatti giustamente lei dice della scuola tradizionale, nel senso che noi siamo anche un po' abituati che la scuola da noi funziona così. Adesso, per fare anche una battuta, spessissimo si legge che in molte scuole non c'è nemmeno la carta igienica e quindi gli studenti si devono portare pure la carta igienica. Ora la carta igienica è più leggera effettivamente della Divina Commedia. Ciò non toglie che se la scuola non ha nemmeno la carta igienica, ci chiediamo come è possibile che invece abbia una didattica organizzata e che tutti i libri siano presenti negli istituti. Cioè costa di più, vuol dire, Carlo, in qualche modo. No, cosa. Mi chiedo se è fattibile. Beh, noi abbiamo trovato tanta sensibilità e disponibilità negli istituti scolastici, tra i dirigenti e gli insegnanti e gli enti locali, sia i comuni che la regione. E si sono impegnati a trovare le risorse, anche le banche, a trovare le risorse per innovare la scuola. Perché di fatto come funziona? Cioè, i ragazzi trovano i libri, a scuola? Sì, dunque, intanto per noi il libro di testo non è così importante. Noi a volte preferiamo pochi libri di testo e libri normali, come si trovano nelle biblioteche. Poi, assieme ai libri, noi diamo molta importanza anche agli strumenti didattici, come posso dire, tattili. Per fare un esempio, sul libro si può spiegare, c'è la spiegazione del sistema solare, però magari abbiamo anche un oggetto che riproduce in scala il sistema solare che viene messo in movimento, il e piccolo planetario solo, eccetera, ma sì, vedono anche, sì, toccano, insomma, ecco, per fare uno dei tanti esempi, per dire che ci vuole il libro, ci vuole il digitale, ma ci vuole anche lo strumento tattile. Mm. Ma per esempio, per fare i compiti a casa, i ragazzi i libri li hanno, ma li hanno a casa, cioè i libri meno che in minor quantità. Non, ecco, è che necessariamente servono per fare i compiti a casa, sì, perché l'insegnante può dare un tema, schede, può dare materiali, può anche mettere in internet dei compiti. Quindi vedete che è completamente diverso la scuola senza già. È un progetto, come diceva Carlo, complesso. Io ritorno al dato di partenza e chiedo agli ascoltatori all'800 24 00 24 se hanno qualcosa da raccontarci su questo. Se, come capita a molti di noi, di vedere dei ragazzini in giro, io ho due figlie ma sono piccole, non vanno ancora a scuola, con questi trolley che si trascinano. In effetti è una scena un po'... Che pensi più alla scogliosi, esatto, che un po' pietosa, devo dire. Ma cosa diavolo dovranno portare ogni giorno per fare a scuola, e questo è il punto di partenza. Il progetto è più ampio, però mi tolga la curiosità, perché questo di scuola senza zaino sembra un po' l'ultima aspetto, l'ultima coda di un movimento che adesso c'è, no? Basta pensare, basta compiti, questo movimento che alcuni definiscono movimento anti-autorità, anti-scuola, antisistema. Volete una vita troppo facile? Mi permette, la cosa nostra è anche un po' vecchia. Perché noi ci rifacciamo ad esempio a una grande pedagogista, ad esempio, italiana, guardi là, Maria Montessori, cioè molte delle cose che noi realizziamo l'aveva già realizzate Maria Montessori, che purtroppo nel nostro paese è poco seguita. Se noi andiamo in Olanda è piena di scuole montessoriane, dall'infanzia alle superiori. Impazziscono tutti infatti per il metodo Montessori, tranne noi italiani. Noi veramente siamo ispirati da Maria Montessori, non solo da lei, anche dagli autori più a noi vicini, però certamente è un riferimento, ecco, che a nostro avviso dovrebbe essere più seguito in Italia. Anche il ruolo dell'insegnante è molto simile a quello che troviamo nelle scuole montessoriane, un ruolo di affiancatore, di sostegno, non solo un ruolo direttivo e Ma quindi voi vi dissociate da questa, per esempio dal movimento Basta Compiti, oppure mi sembra di capire che vi affascina anche voi? No, sappiamo che allora i compiti a casa non è che sono la panacea che risolve i problemi dell'apprendimento, sì, però noi la nostra scelta è quella di far fare i compiti a casa ai bambini e ai ragazzi. Sì. Però poi l'attività fondamentale si fa a scuola. Sa perché le faccio questa domanda? Perché torno a quello che stavo dicendo prima, c'è questa critica che adesso sta emergendo un po' per esempio sul movimento di genitori che chiede basta compiti durante le vacanze, basta compiti a casa, e mi domandavo se in qualche modo potesse riguardare anche voi. Si dice che è una rivolta individualistica, che il fatto stesso di non voler rispettare quelle che sono, diciamo, le regole che la scuola impone sia un elemento che toglie anche di autorevolezza alla scuola e andando di questo passo. Soprattutto se poi si scrivono delle letterine, diciamo, brutte alle maestre dei propri figli, dicendo: io non ho fatto fare i compiti a mio figlio perché ho pensato che fosse meglio così. Chiuderla. I compiti a casa vengono proposti dalla scuola come un sostituto dell'impegno stesso degli insegnanti. E invece per noi i compiti a casa devono farli in autonomia i bambini e i ragazzi. Per noi un valore fondamentale è la responsabilità giusto, del bambino e del ragazzo, per cui devono essere messi in grado. Non deve essere il genitore che si mette lì a farli al suo posto, perché questo accade. Dobbiamo dare un impegno che può tagliare, qui c'è il tema anche della differenziazione, perché non tutti per esempio riescono a stare mezz'ora o un'ora tutti i giorni a fare compiti, quindi bisogna dare compiti differenziati che possano svolgere i ragazzi e i bambini in modo autonomo, senza disturbare i genitori. Ma infatti, se posso aiutarla, è esattamente come sta dicendo lei, nel senso che se si cambia la didattica, in realtà il compito diventa un'altra cosa, diventa quasi un non compito, non diventa stare a casa a dover riempire una pagina ripetendo la stessa parola, ma magari diventa imparare dalla propria nonna come si faceva quando non c'era l'elettricità. Ho detto così perché io sono molto anziano e quindi mia nonna non aveva l'elettricità. Ovviamente i giovani d'oggi hanno le nonne che l'elettricità ce l'avevano. Se no, torniamo all'idea che la scuola deve essere sacrificio. Per noi la scuola non è sacrificio, è fatica che però è entusiasma. È come quando un ragazzino si sottopone agli allenamenti per imparare a giocare bene a calcio, lo fa volentieri perché piace, poi gli piace poi fare la partita. Allora per noi il sacrificio è una cosa, la fatica è un'altra. La fatica è connessa al piacere di studiare, di apprendere, di essere contento di venire a scuola e di impegnarsi seriamente. Certo, scuola facile, eccetera, però l'impegno va bene. Fatica con entusiasmo ci piace. Adesso lo sottoponiamo anche al giudizio degli ascoltatori e la ringraziamo. Grazie Orsi, buona giornata. Grazie mille. Scuola senza zaino, tutto parte, non l'abbiamo detto, dalla provincia di Lucca, in particolare da dove viene anche Orsi, da Fauglia, poi dove Pisa. È nato, sì, esatto, questo è stata applicata per la prima volta scuola senza zaino, ma oggi riguarda tantissime regioni, tantissime città, quindi chiamateci 800 24 0024, siamo qua. Eccoci qua, 8 e 42 minuti, ascoltatori, abbiamo, chi abbiamo? Abbiamo Ilaria che ci chiama da Perugia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Eccola qua. Buongiorno, il mio intervento riguarda, cioè, è una battaglia che diciamo sto portando avanti anch'io con dei genitori. Sì. Il mio discorso partiva, oltre che appunto la possibilità di avere una didattica un po' nuova, anche proprio da un discorso di salute per questi ragazzi, che effettivamente alle volte questi zaini arrivano a pesare anche 7 kg, 8 kg, insomma non è proprio poco. Agevole. Non è poco. Sì. Non è poco. E inoltre... io ricordo che quando andavo a scuola la cosa più bella era fare un tratto di strada da sola, perché dava anche quel senso di autonomia che non è male, no? Acquisire piano piano. E in realtà con questi zaini uno è portato a proprio accompagnarli fino a davanti la porta di scuola. Sì, ma la convince il modello scuola senza zaino, cioè l'idea di che hanno proposto da Fauglia? Al 100% proprio, al 100%, anzi spero che questo modello sia veramente estendibile a tutte le scuole, perché siamo un po' indietro da questo punto di vista, a parte il tablet che, ripeto, anche economicamente, io ho fatto proprio, mi sono divertita a fare un conto, sarebbe un risparmio enorme, è uno spreco di carta in meno. Ilaria, appunto, ma tu hai figli? Due figli, sì. Una fa la prima media, sì, e uno fa il secondo liceo. Quindi sono in pieno questione di super zaini. Poi non so, adesso le scuole a Perugia almeno non è che siano collocate così comodamente anche per arrivarci con la macchina. Sì. In Italia un po' il problema penso sia dappertutto. Quindi si creano questi intasamenti lì davanti e chi anche li accompagna a piedi, poi si creano questi capannelli di genitori intorno che secondo me addirittura, insomma, creano quasi un'intromissione, no? Nell'ambiente che dovrebbe essere loro sostanzialmente. Ma lei dice dice Ilaria che basterebbe non avere gli zaini pesanti per poter mandare i figli da soli, perché poi tante volte non è solo la questione dello zaino. O quantomeno sarebbe più facile fargli prendere un pullman piuttosto che lasciarli magari a 900 un chilometro di distanza dalla scuola, insomma, ecco. Cioè lei dice che spesso i figli vengono accompagnati a scuola fino a sotto scuola perché hanno lo zaino così pesante che uno dice vabbè, ti porto fino lì sotto, che sennò ti devi fare un chilometro con 9 kg sulle spalle. Perfetto, è proprio questo, perché effettivamente io per esempio sulle mie spalle quel carico lì già è molto pesante. Metto sulle spalle di un ragazzo che tra l'altro è in una fase di sviluppo, di crescita, ecco, quindi chiaramente evito. Io mi ricordo che l'anno scorso alle elementari, cioè, la lasciavo in fondo a delle scale mobili. Ma poi lei doveva fare, la bambina in quinta elementare, tutto quel tratto di scale mobili, non so se conoscete Perugia, sì, ma no, cioè, sì, bene, sì, certo, allora alla certo. fine l'accompagnavo fino alla porta di scuola a piedi, ma l'accompagnavo fino alla porta di scuola. Va bene, Beh, Ilaria, verità? Benissimo. E in effetti Perugia tra tutte le città dove sì. andare in giro con uno zaino da 7 kg non è la migliore, ecco. Però è lì almeno ci sono le scale mobili, lì almeno ci sono le scale mobili, ti metti lì e ti certo, tieni su, certo. pensa dove non ci sono neanche le scale mobili. Alfonso da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì. Volevo riferire sulla mia modesta esperienza, che ormai è lontana. Va però, ancora a scuola? No, no, è lontana nel senso che oggi ho 70 anni e a scuola e parlo di scuole elementari. Certo. Con il babbo sono emigrato in Belgio e ho fatto l'elementare in Belgio. Sì. Beh, non ci crederete, ma io partivo la mattina alle 8, vestito normalmente. Poi nella scuola trovavo grembiule, libri, tutto quello che serviva per stare a scuola 8 ore. Cioè libero come un fringuello, usciva di casa giusto con che i vestiti che meraviglia, addosso. Che meraviglia, che senso di leggerezza, bellissimo. Sì, ma guarda, ora era una scuola veramente importante. Cioè, ma era era scuola pubblica? Sì, pubblica, allora. Pubblicissima, non esistono. Ci dica almeno che alla mensa si mangiava male, perché sennò rimaniamo malissimo, sennò vogliamo tutti andare in Belgio. No, non ricordo questo aspetto, sono di appetito, perché forse, però c'è un fatto che vorrei notare. Sì. Appena sono rientrato in Italia, finite le elementari, sono ritrovato con mia sorpresa a stare a scuola 4 ore, va bene? Non solo, ma come portandomi dietro questa catasta di libri che era la catasta di libri, ma Alfonso fa morire da ridere. Doveva essere lei a inventare il movimento scuola senza zaino, perché mi sembra una storia esemplare. Va in Belgio, fa tutte le elementari dicendo andare a scuola è bellissimo, arriva in Italia, appena arriva gli sbattono addosso uno zaino da 9 kg e gli dicono prego, la scuola è là in fondo a 4 km. E questo è il paradigma italiano. Grazie Alfonso. Grazie. E quindi vedete che almeno stando alle prime telefonate, il modello scuola senza zaino fa molta presa, però volendo si può fare, perché a Fauglia lo stanno facendo in quasi 200 scuole italiane, lo stanno facendo, quindi chiamateci 800 24 00 24. Ti leggo rapidissimo un tweet, sì, che ci dice: nel mio comune ci sono 3 linee di piedibus dove gli zaini vengono caricati su dei carri. Addirittura. Quindi uno li deve portare, lo metti sul carro e poi tu vai a piedi libero come in Belgio. Interessante, interessante. A tra poco. Bonita di Madonna. Qua facciamo proprio un tuffo nel passato. Esatto. Quanti ricordi? Zero ricordi, perché uno come Claudia Schiattone che non era nata forse. Avevamo lo zaino sulle spalle, per quello. Zaino leggero, però. Avevamo zaino 15 kg di zaino, direi, sulle spalle. Beh, una canzone azzeccatissima questa scelta del nostro Andrea Piana, perché stiamo parlando di una isola ecologica, però, perché non tutti gli operatori dell'AMA di Roma sono faccendati senza scrupoli, senza cuore. Sentite qua la storia. È con noi intanto Enzo Di Cesare, responsabile della isola ecologica Stella Polare del 10° municipio di Ostia, dove ci sono un sacco di piante riciclate. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno a voi. Succede che a qualcuno di voi a un certo punto viene in mente di non buttare, non gettare, certo, non gettare le sfalci delle potature, ma di riutilizzarli e di, sì, ripiantarli. E che, sì, e che succede? È nato così, tutto per caso, diciamo, che ci sembrava brutto buttare le piante già fatte, e abbiamo deciso di metterle qui nell'isola ecologica. in modo che insomma c'era solo del cemento. Adesso chi arriva trova un sacco di vasi, appesi, fiori, di tutti i tipi. Ma la curiosità è, ci sono così tante persone che buttano via le... Ci sono anche gli utenti che ci portano anche le piante, oltre che recuperarle. Dopo che avete iniziato a recuperarle, certo, voi ve le portano o ve le portavano anche prima? No, abbiamo prima recuperato noi, e poi la cosa ha preso piede, gli utenti... Bravi. Io trovo che sia una storia stupenda ed esemplare per un motivo, perché spessissimo, noi spessissimo poi con Ercolini parliamo del riciclo, dell'importanza di dividere, dell'umido, di recuperare l'oro da dentro i telefonini, ma non c'è niente di meglio di vedere con i propri occhi qualcosa che è veramente recuperato, quindi improvvisamente avere un bosco che sarebbe stato buttato via e invece viene piantato, e il collegamento è un attimo, quando prima parlavamo di compiti, ecco. Questo è esattamente, è come fare i compiti. Tu vedi questa cosa qua e improvvisamente dici: ma in effetti, perché noi buttiamo via un sacco di roba che si potrebbe riusare? Certo. L'isola ecologica è nata per questo, insomma, anche per oltre per le piante, anche per altri parti tipo di rifiuto. Insomma. Che piante avete, ci sono? Di tutti i tipi? Abbiamo di tutto, anche abbiamo del melograno nano, abbiamo dei bei gigas, abbiamo delle piante belle grasse, altissime. Insomma, è tutto bello. Tante piante, abbiamo del ficus, orecchie d'elefante, Orecchie d'elefante? Orecchie che pianta d'elefante, è? Sì, è un tipo di pianta, penso, esotica. Forse ho capito, con una specie di pianta grassa, forse quella perché specie ormai sei a Milano e pensi che orecchia d'elefante sia la cotoletta. Per noi è la cotoletta, sai Enzo, l'orecchia d'elefante. Però bisogna dire, come va la raccolta differenziata? Cioè c'è sicuramente una sensibilità che è cresciuta, anche a Roma, abbiamo... dove c'è il problema di Malagrotta, dove ci sono i cassonetti a volte, perché una cosa che nessuno dice, lo voglio citare io il dato, me lo sono segnato, è che la raccolta differenziata a Roma ha raggiunto quasi il 38, credo, per cento. Ora non so se il dato... Lei ce l'ha il dato esatto? Lo sa? No, il dato esatto no. Non lo sa. Sono cose da statistici. Anni fa era il 17%, sei anni fa. Quindi era raddoppiata. Cioè c'è stata una sensibilità. Si vede anche lì nella gente che viene da voi? Sì, abbiamo molti ingressi. Abbiamo tanti ingressi. Questa è una delle isole ecologiche che lavora tantissimo. Abbiamo circa 400 ingressi giornalieri. Cosa arriva? Di tutto? Di tutto, legno, batterie, olio motore, abbiamo di tutto. Stereo vecchio, vedo un sacco di... Sì, televisioni. Magari tutto. Anche cose funzionanti, ma fate anche quella cosa che si aggiusta? No, quello no? No. Però bisognerebbe farlo, Enzo, che ne pensa? Tanto va tutto in recupero questo, non è che viene distrutto. Va tutto in recupero, Prendono di tutto, su un tipo di rifiuto viene recuperato tutto, quasi tutto. Ma anche lì davanti a voi ci sono quelli che stanno fuori dell'isola ecologica che chiedono alla gente di regalargli il rifiuto? No. Noi no. Solo a Milano ce l'abbiamo. Perché a volte dispiace anche buttare via degli oggetti che magari sono funzionanti, ma che se non servono più, non si sa come fare a liberarsene. Io ritengo che comunque come viene recuperato tutto, quindi non viene proprio gettato, la parola è brutta, gettato, però vanno sulle piattaforme e viene recuperato tutto quanto. E voi siete un'incarnazione vivente, come diceva prima Carlo. Pensi solo una cosa, che con gli schermi delle televisioni ci rifanno le piastrelle, quindi... Sì, io sono felice questo, di sentire questo. Ercolini ce l'aveva detta questa cosa qua. Sono un accumulatore compulsivo, quindi sono felicissimo quando sento che giustamente si ricicla tutto. Io infatti tengo tutto, è tutto a casa mia. E tutto può servire a qualcosa, una seconda vita si può dare quasi a tutto. 800 24 00 24, vi aspettiamo di nuovo dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Instalava. Fammi un check, scrivimi su direct se sei buona, anche di persona, di persona. E la foto poi non si ridimensiona. Talmente boss che dovrei stare a Playa d'Embossa. Talmente hot che se ti scrivo prendi la scossa. Ti seguirò, non lo so, forse. Metti foto di borse, fuori città le settimane scorse. Mentre cammino suona la mia collanazza. Ed è un pezzo che mi whatsappa, che pezzo di ragazza. Mi hai mandato foto in ogni posizione. Vedi, ti ho inoltrato la mia posizione. Quando arrivi sai ti toglierò il wifi. Posso metterti di tutto tranne un like. Eccoti la love story senza uscire mai fuori. Per te servono anche due caricatori. Ti ho conosciuta così. Ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì. Ed è finita in 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp senza uscire da qui. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ascoltatori, oggi tra poco debutterà la nuova rubrica su Cloud Me Up, in realtà la vecchia rubrica, ma vi chiediamo di fare da giuria popolare, quindi se volete dire la vostra su due progetti, uno che riguarda la riqualifica di un parco urbano a Musomeli in Sicilia e uno che riguarda invece un canile di Rubano in provincia di Padova che vuol costruire cucce coi bentate, chiamateci 800 24 00 24 perché ci aiuterete a dare un giudizio su questi due progetti di crowdfunding. Proviamo con gli ascoltatori. Molto, siamo molto emozionati per questo nuovo metodo dove sono gli ascoltatori che scelgono il progetto migliore. Adesso invece diamo il benvenuto a Giuseppe Busia, che è il segretario generale dell'autorità garante della privacy. Buongiorno Busia. Buongiorno. Bentornato ai nostri microfoni. Con lei vogliamo vedere se c'è qualche spiraglio di luce sulla vicenda più ampia che parte dal caso di cronaca di Tiziana Cantone. Abbiamo detto prima il paradosso di una persona che chiedeva di essere lasciata stare, diciamo un oblio nei suoi confronti, anche se la parola tecnicamente lei mi spiegava non è corretta, e se ne continua a parlare. Però parliamo del fatto che oggi pubblicare dei video offensivi contro la volontà di una persona in rete è prima di tutto non è un reato penale, vero? Ma può avere aspetti penali nel momento in cui da un lato il video sia offensivo, sia, e quindi andiamo nell'ingiuria, la diffamazione, oppure nel caso in cui non sia stato chiesto, quindi avvenga contro la volontà della persona, non sia chiesto il consenso e ci sia un intento di lucro o di creare o l'intento di denigrare e creare comunque un danno. In questi casi era avvisabile anche un'ipotesi di reato. Nei casi diversi questo non c'è. E tuttavia si rischiano almeno sanzioni amministrative. Ecco, però le sanzioni amministrative evidentemente non sono un deterrente, in altri paesi un deterrente efficace, in altri paesi il reato penale, con pene anche molto severe, pensa agli Stati Uniti, evidentemente riescono a essere più efficaci. E c'è una legge in discussione sul cyberbullismo che potrebbe fare questo passo, per esempio, è vero? La speranza è che, diciamo, individuando anche specifiche fattispecie di reato, rafforzandole con alcuni aggravanti, si riesca a fare un passo in avanti, quindi la legge fa tanti passi in avanti. Il problema non è tanto, io credo, che l'assenza di sanzioni in questo momento, o la scarsa deterrenza delle sanzioni, è molto qui negli Stati Uniti, purtroppo in tutto il mondo, la scarsa consapevolezza e cultura da parte di chi fa degli effetti dirompenti che una pubblicazione sul web, una pubblicazione, una diffusione su internet produce per la persona, tanto più quando si tratta di minori, ma anche, come in questo caso tragico, per gli adulti, perché nel momento in cui c'è la vessazione, questa punita, come dicevo, la volontà di fare un danno, oppure nel momento in cui si disattendesse un provvedimento del garante, ma in questi casi cosa scatta, venendo all'elemento psicologico, molto riguarda i ragazzini, ma in certi casi gli adulti. Internet da un lato ha due pericoli essenzialmente: uno, quello di far perdere il controllo delle informazioni messe sulla rete, perché dopo che c'è la prima diffusione poi le informazioni vengono raccolte, salvate su un altro computer, pubblicate su un altro sito, magari a distanza di tempo, e quindi anche quando si ha tutti i presupposti per intervenire e la volontà di bloccare è difficile farlo. E questo è un primo elemento. Sì, un secondo elemento sì. è quello che spinge a far male o sentire il male prodotto dal web più forte. La vittima non ha una percezione di controllo, mentre l'insulto, il bullismo è sempre esistito, la spinta, lo schiaffo fisico anche facevano male, però rimanevano circoscritti a un episodio. Sì. Però ecco, internet... io so che voi su questo aspetto lavorate molto, questo aspetto della consapevolezza e questi elementi sull'utilizzo di internet sono importanti, la faccio proseguire, però prima voglio dire una cosa, perché oltre al discorso del reato c'è un'altra questione che lei ci spiegava prima di fare l'intervista, che è altrettanto importante, che è la tempistica dell'intervento, no? Perché è un aspetto apparentemente tecnico, ma invece è fondamentale. Cioè i tempi della giustizia non sono i tempi della viralità sui social network, della diffusione di un video, per cui se si riesce a intervenire subito è un conto, altrimenti si ha appunto la riproduzione incontrollata, proprio per questo fenomeno e soprattutto il caso di questa ragazza emblematico. Se il video diventa, come si dice, virale, cioè viene visto magari perché, come capita spesso, perché ha contenuti sensibili, contenuti espliciti, questo fa sì che venga riprodotto su più siti, magari conservato sul server del computer e quindi ripubblicato a distanza di tempo, per cui l'intervento diventa inefficace. La rete aiuta a perdere il controllo, anzi una delle caratteristiche della rete è questa, per questo la tempestività nell'intervento e anche la tempestività nella denuncia e nella segnalazione, perché in questi casi l'altro elemento chiave è quello di assolutamente non vergognarsi delle situazioni in cui ci si trova, che sono sempre più diffuse purtroppo, e procedere immediatamente alla denuncia, perché questo consente di ridurre enormemente il male. Nel caso di specie purtroppo diciamo il video era in modo assolutamente diciamo negativo, è stato riprodotto e preso anche quasi come emblematico di possibile riproduzione. Cioè quel video andava bloccato subito, in poche parole, ci voleva una sentenza rapida, perché la mamma della ragazza si era mossa abbastanza rapidamente. Io non vorrei entrare nelle sì. circostanze di fatto di come sono venute le denunce eccetera, perché sono anche al vaglio di assolutamente della ieri, però il garante il suo non entrare nel caso di specie, però sì. Sicuramente è cruciale la tempestività dell'intervento, proprio perché evita questa riproduzione incontrollata che fa perdere la possibilità concreta di bloccare e intervenire. Certo, è chiarissimo questo. Il problema, senza entrare giustamente nel caso specifico, ma parlando in generale, come si fa, avendo una giustizia italiana che già funziona con dei tempi biblici, nel momento in cui si deve occupare di internet e quindi deve avere dei tempi iper rapidi, perché sennò è assolutamente inefficace, come si fa? Diciamo, esistono anche per la giustizia italiana alcuni interventi d'urgenza e cautelari, certo. Esistono poi in capo al garante alcuni poteri di intervento anche rapido, che è il blocco, cioè si blocca prima di avere anche contezza di tutto, cautelativamente in qualche modo, si blocca il sito, si dice blocca, smetti di pubblicarlo, si valuta con quei tempi dovuti e a seconda che sia lecito o non lecito, o si conferma con un divieto, e quindi divieto di pubblicare anche successivamente, oppure si consente la ripubblicazione. È importante però che la legge sul cyberbullismo tenta di andare su questa strada, cioè tenta di introdurre degli elementi di rapidità. Quello che è cruciale sempre, comunque, quando si creano questi strumenti bisogna dare anche i mezzi per poterlo fare, perché altrimenti, come dire, si crea il meccanismo, ma se non si hanno le forze di farlo, e purtroppo sono fenomeni sempre più diffusi, evidentemente non, l'inefficacia ritorna. Tra l'altro una cosa che aumenta l'inefficacia degli interventi è anche il fatto che spesso i siti che pubblicano, prendiamo YouTube o anche altri, insomma, hanno sede all'estero, non possono sottostare facilmente alla legislazione italiana, ci vogliono delle rogatorie e questo allunga i tempi, anche questo è un problema, vero? Allunga moltissimo i tempi ed è una delle principali difficoltà del muoversi su internet. Sotto questo profilo una novità importante è il nuovo regolamento in materia di protezione dati, che prevede in modo esplicito, chiaro e inconfutabile che quando ci sono dati di cittadini europei anche se vengono utilizzati, trattati, si dice tecnicamente, da soggetti che risiedono altrove, comunque l'accessibilità questi soggetti devono applicare, sono soggetti a tutta la normativa europea. Infatti, questi mi ricordo che quando c'era stato questo passaggio ne avevamo parlato proprio con lei. 800 24 00 24, ascoltatori, se volete intervenire anche su questo vi aspettiamo. Busia, se ancora ha 2 minuti da dedicarci, facciamo le informazioni sul traffico e poi torniamo. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato. Con il segretario generale dell'autorità, garante della privacy, mi stavo incartando, Giuseppe Busia. Stiamo parlando non tanto nello specifico del caso di Tiziana, su cui ci sono anche delle indagini aperte, e tra l'altro, però, questo lo voglio dire, ieri il garante, il presidente quindi dell'autorità, Antonello Soro, ha detto che, insomma, secondo lui la legge è stata mal applicata in questo caso anche dai magistrati. Quindi possiamo aggiungerci, lo dico io, non lo faccio dire a lei, Busia, un po' di sana ignoranza anche da parte dei magistrati, che forse su questa materia qua ancora troppo poco sanno. Veniamo invece agli sprazzi di luce che ci possono essere, e le domande sono due. Una riguarda, lo stava accennando lei, la legge sul cyberbullismo, cosa ci aspettiamo qualora verrà approvata nella versione in cui la conosciamo adesso, e l'altra è in quali casi invece, anche grazie all'intervento del garante, cioè di voi stessi, si riesce a risolvere casi di questo genere, ad appianare delle controversie anche con i grandi player di internet, eccetera, perché a volte questo accade. Sì, noi abbiamo poteri, come dicevo, di blocco del sito, cioè un intervento d'emergenza, e poi di divieto, impedire la pubblicazione, per cui se ci arriva una segnalazione abbiamo la possibilità di e si riesce, appunto non è avvenuta quella diffusione, propalazione che rende difficile, ma se si ha una pubblicazione circoscritta riusciamo a intervenire e bloccare. Quindi è importante denunciare, segnalare, non vergognarsi delle situazioni in cui ci si trova, questo vale soprattutto per i minori che hanno questa ritrosia più di altri. Secondo elemento positivo, al di là di quello che dicevo sul regolamento, cioè l'applicabilità, comunque i grandi over the top sempre di più hanno e stanno acquisendo la consapevolezza che devono garantire uno spazio sicuro, e quindi hanno un atteggiamento molto più collaborativo di quanto accadesse in passato, e abbiamo avuto anche recenti provvedimenti in cui noi abbiamo imposto la cancellazione ad esempio di un profilo Facebook costituito da una persona che si fingeva altra. Stiamo riscontrando la collaborazione di Facebook a seguito di un nostro provvedimento di cancellare. La legge sul cyberbullismo ha degli elementi positivi, gli elementi positivi sono dato. Intanto Busia non si muova, non ci sente più, evidenziando Busia. Le specificità che riguardano il male prodotto con la rete, quindi cyberbullismo o anche i casi di adulti. E l'altro elemento fondamentale è quello di puntare molto sulla formazione, sull'educazione, sul creare consapevolezza, cercare di far sì che nelle scuole, ad esempio, diventi materia di studio ordinario una sorta di educazione digitale che deve esserci, ecco. È una parte essenziale anche dell'educazione fisica, dell'educazione civica e dell'educazione to court. Questo mi sembra, se mi permette, veramente il punto importante, l'educazione civica digitale da fare probabilmente già nelle elementari, perché questa questione dei tempi, che siamo molto contenti che si riesca a ridurre i tempi per riuscire a eliminare dei brutti video su internet, ma credo che sia una lotta un po' impari, perché ormai ognuno di noi, anche quando legge un commento stupido, fa uno screenshot nel tempo di 10 secondi. Non si può pretendere che nessun potere, nessuna polizia possa cancellare le cose prima dei 10 secondi in cui io copio una cosa, e poi ci sono molte persone che appunto salvano i video e li rimostrano in altri momenti. Invece la questione dell'educazione civica digitale mi sembra dirimente. Questa forse è il vero modo. Creare consapevolezza anche degli stessi minori, che spesso sono, come dire, nel momento in cui sono carnefici, sono vittime loro stessi, perché non si rendono conto di compiere alcuni reati e quindi di trovarsi in una situazione grave. Il secondo caso è quello in cui nasce dall'esposizione del singolo. Molto spesso è la singola persona che pubblica determinate foto, non si rende conto del fatto che internet è per sempre, internet consente la propalazione, e quindi non si rende conto che si sta producendo, sta creando i presupposti per prodursi il male. Per cui l'arma norma, è giustissimo, non c'è polizia che tenga, non c'è intervento per quanto rapido che possa coprire la totalità del web, serve consapevolezza, serve educazione, serve capire che come a noi è naturale non andare in mezzo alla strada senza guardare e si insegna ai bambini all'inizio ad attraversare la strada, così sul web, sulle vie della rete bisogna andare assolutamente. Io però, anzi, la ringrazio Busia per essere stato nostro ospite e insisto su quegli altri aspetti che sono il reato penale che è in arrivo probabilmente con la legge sul cyberbullismo, i tempi della giustizia che devono assolutamente essere velocizzati perché abbiamo sentito è cruciale e poi la collaborazione dei grandi, si chiamano così, player, Google, Facebook, YouTube, chiunque partecipi in qualche modo, WhatsApp, alla diffusione di questi contenuti e su questo il Garante per la Privacy sta lavorando. Un po' di collaborazione l'hanno ottenuta, ma soprattutto l'educazione civica digitale di cui abbiamo ora parlato. Io invece non sono d'accordo, penso che ci voglia il reato, ci vogliono disincentivi, ci vogliano la giustizia deve intervenire rapidamente. Non avrà mai tempi per poter intervenire. Assolutamente, l'educazione è fondamentale, è importante, però se non riusciamo a educarne tutti, ce ne sarà sempre qualcuno che cerca di fare il furbo, bisogna che venga preso con le mani nel sacco. Grazie Busia, grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24, ascoltatori, abbiamo, chi abbiamo che ci chiama? Mirella da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo proporre una cosa credo molto semplice da fare, soprattutto adesso che sono riprese le scuole. E si tratta di questo, si tratta di fare lampeggianti i semafori al verde, cioè praticamente o quando sta per finire il tempo lampeggiare tre volte come ho visto fare a Vienna, oppure io l'ho visto anche a Copenaghen. E con il conto a loro rovescio, noi abbiamo l'arancione, ma però noi abbiamo il giallo. Il giallo, l'arancione è non... in grado di attraversare tranquillamente. Sì, ma abbiamo il giallo noi. Sì, abbiamo il giallo, ma quando abbiamo il verde, poi dopo dal verde diventa subito rosso. Dal verde scatta il giallo, di modo che io so che ho gli ultimi istanti per poter attraversare e poi diventa rosso. Io lo chiamo arancione, tra l'altro, non il giallo. Tu lo chiami il giallo? Dopo parliamo del colore. Forse hai ragione tu. Va bene, e io invece quando sono al semaforo, per esempio, dal rosso diventa verde. Dal rosso sì, dal rosso non c'è il giallo, perché in teoria dal rosso è la partenza, quindi non è il fatto che io ho l'ultimo tempo per passare dal rosso, ma se io sto attraversando dall'altra parte ho il verde, vedo il giallo e so che sta per scattare il rosso. Mm. Non è così? No. No, quando lei è al verde e poi deve attraversare gli ultimi secondi, quello che è, poi diventa rosso. No, diventa giallo e poi diventa rosso. Vi state incartando in questo dibattito. Vabbè, grazie comunque Mirella per il suo suggerimento. Lei propone questa cosa dei semafori col verde lampeggiate, che secondo la nostra interpretazione, mia di Carlo, corrisponde all'equivalente o giallo o arancione, che ti avvisano che in effetti il verde sta finendo, arriva il rosso. Però Mirella, gli piacevano come erano fatti a Vienna. Bisognerebbe indagare se in effetti è più efficace. Si risparmia una luce, in effetti, perché basta far lampeggiare il verde e così si può saltare il giallo. Sai a livello comunale quanto risparmio? Ivo dalla provincia di Como, buongiorno. Buongiorno a voi, si può fare. Buongiorno. Eccolo qua. Niente, io telefonavo per dirvi che io nel lavoro sono capitan riciclo. Volevo informarvi che domenica, in molti comuni italiani si organizza Puliamo il Mondo, che è questa manifestazione. Però non dirlo con quest'aria un po' triste, perché è una bella cosa, capitare di ciclo. Puliamo il Mondo! Allora, ci vuole entusiasmo, Ivo, per coinvolgere la gente ad andare a ripulire l'estate. Sono emozionato, il fatto che stavo aspettando, sentivo la signora giallo, verde, rosso e tutto quanto. Quindi... si è incartato anche Ivo, in effetti ci stavo incartando tutti su quella cosa lì. Allora anch'io mi stavo domandando, ma viene il verde o viene il giallo o viene il rosso? No, ma perché almeno che la signora non stesse dicendo che dal rosso al verde non si passa al giallo, invece in altri paesi effettivamente anche dal rosso al verde c'è il lampeggio del rosso, che tu sai che sta per... però insomma. Comunque niente, io volevo solamente avvisare, diciamo, domenica così. Prossima, sabato e domenica prossima. Sabato e domenica Italia Nostra organizzerà in normalmente, se ricordo bene, più di 1500 comuni in Italia. E tu dove vai, Ivo, a ripulire? Io domenica prossima, allora io sabato mattina sono a Bucinasco, che è un comune. Ah, come no, abbiamo anche degli amici che ci abitano. Ma Ivo, in quanto capitan riciclo, ti porti dietro una squadra tutta tua? No, una squadra no, sono io che faccio tutto. Ma sei il capitano di te stesso, va bene. No, però vi spiego una cosa molto importante per quando si organizzano questi eventi qua. Io avrò l'occasione, l'autorizzazione da parte del comune, perché io sabato mattina sono a Bucinasco e domenica mattina sono a Vimodrone. Sì. Quindi io entrerò nelle scuole elementari vestito da capitan riciclo, che è questa tuta armato verde di scopa e mocio? Ma no, la scopa no, c'ho lo spruzzino, c'ho il pannello solare, no, tutta verde con tutti, diciamo, oggettistiche, diciamo così, sull'ambiente, e entrerò classe per classe, quindi ogni classe elementare mi vedrà, entrerò e inviterò i bambini a venire con i loro genitori, a venire cortesemente senza usare un mezzo motore. Ma la domenica le scuole sono chiuse? No, infatti, ma lui dice il sabato, io vado, spero. Io vado nella settimana a dire che domenica e sabato c'è questo. Ascolta, Ivo, ma perché hai scelto Bucinasco e Vimodrone? Perché sono particolarmente zozze? Io, allora, vi spiego una cosa. Io prima lavoravo, cioè era il mio principale lavoro. Adesso capitavo in ciclo, se dovesse lavorare solo di questo, farebbe veramente la fame. Quindi, cosa succede? Io organizzo questo evento qua. Oltre a questo, normalmente, non so, mi porto il laboratorio delle piante, quindi porto delle piante autoctone, tipiche delle nostre zone, porto le piantine piccoline, porto il vaso, porto la terra, e ai bambini, il comune, e poi, cioè, grazie a me, regalo questa pianta da portare a casa. Poi se si trova uno spazio verde pubblico, dato che sono piante che sono idonee, restano e vengono regalate. Benissimo. O se no c'è la macchina del riciclo, che è una cosa carina, divertente, è un cubo di legno dove mettiamo la prova, cioè se vieni tu e ti do in mano un diciamo così, una cosa che normalmente i cittadini, il Tetra Pak, esempio, dov'è che si butta il Tetra Pak? Quindi lo devi inserire nella giusta finestrella. Se sbagli, la macchina si arrabbia, ti mettiamo le orecchie d'asino. È bello, dove bravo. Si butta il Tetra Pak? Già che ci dipende siamo. Dai comuni, guarda. Ah, sì. Ci sono delle app che lo suggeriscono, ma sono geolocalizzate. Perché noi chiamiamo Ercolini di solito. Dai comuni. Tetra Pak, tre componenti, pensate un po' voi, non una, tre componenti. Sì, perché c'è l'alluminio. C'è di tutto dentro. Ivo? Sì. Devi lasciarci. Niente. Vuoi rimanere qualche minuto con noi per fare la giuria del crowdfunding o non hai tempo? Guarda, sono in mezzo, dato che io prima abitavo a Milano, adesso abito in campagna, sono in mezzo al prato con il mio gatto che mi gira in mezzo al prato. Allora stai lì. E allora stai lì, che dopo la pausa facciamo crowdfunding e ci fai la giuria popolare. Grazie, a tra poco. Grazie. Resta in linea. Ciao. A dopo. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour, Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Allora, 9.35 minuti, è il momento di parlare dei progetti che chiedono il vostro aiuto, ascoltatori, progetti che chiedono il finanziamento dal basso, Crowd Me Up. Parliamo di crowdfunding. Stavolta l'ho pronunciato bene. Benissimo. Dicono sempre che sbaglio con l'inglese. Perché è una parola che abbiamo deciso che è intraducibile, quindi giustamente l'hai parata in inglese. Devo però fare una precisazione, perché così. Forse abbiamo svelato l'arcano della signora dei semafori, il giallo, l'arancione e tutto. Hai studiato perché, durante la pausa. Perché sì, nei semafori pedonali non c'è il giallo. E invece, a differenza in altri paesi, il verde lampeggia e si comprende quando precisamente arriva, cioè sta per arrivare il rosso. Pare che in invece lei parlava in, vero, ha ragione, forse nei pedonali non c'è, però italiani... spesso lampeggia il verde, non sempre, lei vorrebbe che fosse sempre così. Esatto. Ah, Mirella, abbiamo reso giustizia, esatto, al suo e chiediamo scusa se abbiamo mal interpretato. Assolutamente. Allora io fra poco presentiamo i due progetti che cercano il vostro aiuto. Prima però abbiamo gli ascoltatori che ci danno una mano, oggi fanno la giuria popolare. Ivo da Como, eccolo qua, ciao Ivo. Sì, ciao, ciao. Buongiorno. Ben ritrovato, bene, bene. Grazie. E Gianni da Treviso. No, voi... non è Gianni, chi è? È Gianni che gioca con noi? Sì. Benissimo Gianni, poi facciamo intervenire anche su quello che voleva dire, mentre Ivo ha già parlato. Allora Gianni e Ivo sono i due giudici oggi per parlare di che cosa? Di due progetti. Il primo progetto di crowdfunding è questo qua, si chiama il Parco a Regola d'Arte. E lo hanno lanciato i ragazzi di un'associazione culturale di Musomeli in provincia di Caltanissetta, che stanno cercando di qualificare il parco urbano Arci Park, strappandolo al degrado e trasformandolo in un piccolo museo a cielo aperto. Vogliono raccogliere 1.000 euro. La loro portavoce è Roberta Lanzalaco. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Roberta, hai circa 40 secondi, quasi un minuto per convincere Ivo e Gianni, ma anche tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, perché dovrebbero sostenere il vostro progetto. Buongiorno a tutti, ciao Ivo, ciao Gianni, parlo a voi due, ma in realtà, come viene anticipato, parlo comunque a tutti. Le nostre parole d'ordine per questo parco, diciamo, sono veramente pochissime. Sono innanzitutto voi siete dei nostri, perché grazie anche al vostro aiuto il giardino che fino ad ora è stato dimenticato al centro della Sicilia sarà invece di nuovo il giardino di tutti. Proprio in questo momento, da qualche annetto, sia giovani locali ma anche volontari che provengono da tutta Europa ci stanno già aiutando con la riqualificazione di questo parco. Infatti, se siete interessati, potete comunque seguire il corso dei nostri lavori. È finito il tempo, è finito il tempo, però adesso abbiamo l'appello. Come esatto, dire, esatto. Roberto, se Ivo, Gianni, avete delle. Avete capito tutto? Avete capito tutto bene, se no, se avete una domanda esplicativa, potete farla. No, no, io ho capito benissimo. Ha capito. Perfetto. Abbiamo anche Alfonso da Prato in giuria. Buongiorno Alfonso. Ah. Buongiorno. Ecco, ha sentito il progetto il Parco, sì, Regola d'Arte? Sì, tutto chiaro? Ma direi nelle linee generali. Sì. Ecco, bravo. Quindi Roberta Lanzalaco si è spiegata bene l'associazione culturale Strauss di Musomeli. Siamo molto italiani perché abbiamo più giurati che giudicati. Come quindi sempre. È molto, molto giusto. Allora, domanda la faccio io a Roberta. Cosa avete previsto di ricompensa per chi vi donerà un aiuto? Ma noi intanto siamo molto ospitali come siciliani, lo ospitiamo qui. Stanno con noi, ci aiutano, passano una settimana con noi se vogliono stare... anche di più, perché no, poi tutto quello che verrà. Ah, ospitalità, ospitalità. Faccio una domanda brevissima anch'io, mi sembrano pochissimi i soldi che servono. In realtà ci autofinanziamo già da un bel po' di tempo, quello che chiediamo è solamente una mano e se poi qualcuno sarà così generoso da aiutarci in futuro, perché no, tutto cioè, benvenuto. Cioè, questo quindi è importante, in realtà molti soldi, molti investimenti li avete già fatti voi, ve ne mancano 1.000 e questi li state chiedendo. Benissimo, sì. Allora, secondo progetto si chiama Io non voglio vivere da cani, una campagna lanciata dalla Lega Nazionale per la difesa del cane e per il canile di Rubano in provincia di Padova. L'obiettivo è raccogliere in questo caso 6.000 euro per acquistare che cosa? Delle cucce coibentate per i cagnolini. La portavoce di questo progetto si chiama Pamela Prandin. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Eccola qua, Pamela, della Lega Nazionale per la difesa del cane. Anche te, Pamela, 40 secondi. Vai. Allora, che il cane sia il miglior amico dell'uomo non è solo detto, ma è proprio un fatto e tutti lo sappiamo, perché il cane ci vuole bene sempre e comunque, c'è vicino e non ci abbandona mai qualsiasi cosa noi possiamo farlo. Il nostro obiettivo come volontari è quello di donare una famiglia a tutti quanti i cani, è il nostro primo obiettivo. Ma per quelli che ancora non siamo riusciti a dargli una famiglia, cerchiamo di curarli nel miglior modo possibile, dalle cure veterinarie fatte con qualità, al cibo di qualità e quindi anche una casa. Hanno ecco, delle sul gong è arrivata la parola, Pamela, la parola chiave. La casa. La casa. Stavolta la faccio io la domanda, sì. La domanda sulle ricompense, perché voglio sapere se come ricompensa poi mi tocca andare a me nella cuccia coibentata. No, però magari mettiamo una targhettina con il nome dei donatori sulle cucce, così si ricorda sempre chi ci ha tanto aiutato. Che non so se è una bella immagine, perché quindi c'è un cane dentro la cuccia e sopra c'è scritto Carlo Gabardini? Questo accadrà, e questa è la ricompensa. Vabbè, questo va bene, così va che bene. Funziona il caso. Gianni, Ivo e Alfonso, oggi tutti maschi, avete per caso qualche domanda da fare a Pamela su Io non voglio vivere da cani? No. No. Avete capito tutto. Meglio così, vuol dire che sono stati bravi le nostre due relatrici. Io però non ho capito... Coibentate, molto semplice. Comunque, mi sembra un pochino... non so, eccessivo come aspetta, chi è che sta parlando? Alfonso, ecco, questo già rientra nel giudizio finale che vi chiederemo tra poco. Io però ho una domanda da fare a Pamela e riguarda proprio queste cucce coibentate. Servono in particolare per isolare dal freddo? Nei canili normalmente non sono coibentate le cucce? No. Le cucce che abbiamo tuttora sono cucce di legno vecchie di 40 anni e le cucce coinventate permetteranno ai cani, che comunque sono fuori, tra virgolette, sì, di essere riparati dall'umidità. Siamo in Veneto, qui l'umidità batte forte, dal va gelo, bene, dalle intemperie, dall'affa del caldo estivo, e quindi sono maggiormente protetti. Allora, abbiamo capito anche questo. Allora, mettiamo a confronto, per scherzare naturalmente, perché è solo un gioco, il progetto, il Parco Regolare d'Arte in Sicilia, e io, l'avete appena sentito, Non voglio vivere da cani, in provincia di Padova, e chiediamo a Ivo dalla provincia di Como il suo giudizio. Quale dei due progetti, Ivo, ti ha convinto di più? Allora, io parto dal presupposto che ho due cani e due gatti, mamma e figlia, però scelgo il progetto, quello a Caltanissetta, perché... diciamo così, le piante, i bambini, i ragazzi, i cittadini del luogo, quindi una ti ha coinvolto di più. Mi ha coinvolto di più questo. Ottimo. Bravo, Ivo, cioè bravo. Grazie. Nel senso, per la motivazione, non per la scelta. Alfonso, dalla provincia di Prato. Sì, io penso che il progetto che riguarda i cani sia un eccesso. L'aveva già detto. Lo ripeto. Il primo progetto mi sembra invece molto utile, molto interessante. Sicilia 2 punti, Canile di Padova 0 punti, ma non abbattetevi, perché magari Gianni da Treviso potrebbe cambiare le carte in tavola. Gianni. Allora, vi dico, dovrei votare Veneto per fare 2-1, ma in realtà mi piace di più il progetto siciliano, devo dirvi la verità, purtroppo è un 3-0, mi piace di più il miglioramento. Colpo di scena. Ma va benissimo, perché ricordiamo che comunque entrambi i progetti rimangono sulla piattaforma, non è un concorso, non è che si va a eliminare uno dei due progetti, è semplicemente che portiamo al vaglio degli ascoltatori due progetti di volta in volta per parlare di entrambi. Assolutamente, quindi Pamela Prandin della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, e il progetto che non ha ricevuto il plauso degli ascoltatori, magari invece sarà quello che riceverà più finanziamenti. Io ve lo auguro, perché l'obiettivo del crowdfunding è questo, convincere i finanziatori. Pamela, in bocca al lupo comunque. Grazie. E invece Roberta, complimenti, ma insomma, grazie, l'importante è farcela. Avete convinto gli ascoltatori, adesso dovete convincere i potenziali finanziatori. Invitiamo a questo punto Ivo, Gianni, Alfonso a fare il loro versamento per il progetto che gli è piaciuto di più, quello del parco. E allora, intanto grazie anche agli ascoltatori che hanno giocato con noi. Forse ce n'è uno che doveva fare anche un intervento sull'argomento, lo teniamo in linea, lo sentiamo dopo il traffico. Vi ricordo che invece tutti i progetti che vi sottoponiamo, in particolare questi due, sono sul sito di Eppla, ma le informazioni le trovate anche sul sito di Radio 24, c'è una sezione apposta per Crowd Me Up, quindi andate, scegliete e finanziate se volete. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppla. Alfonso, buongiorno, ti dovevamo un intervento da... No, Gianni da Treviso, mi sono sbagliato. Eccolo qua. Da giurato a ascoltatore. sì. Intanto buona giornata a voi. Grazie. È un piacere ascoltarvi. Stamattina, venendo qui in ufficio, vi ho sentito parlare di semafori, no? Sì. Cioè, veramente ci siamo imbattuti in questo argomento, perché un'ascoltatrice ha chiamato Mirella dando quel suo suggerimento, e di lì è nata una discussione. Dici, ecco. Parossistica, sì. Invece vi voglio raccontare la mia esperienza di una... Sì. Di un giro fatto in una città del nord Europa, Breda, una piccola città olandese, e diciamo il mio cliente aveva sempre il verde. Io dico, ma che fortuna nella vita, hai sempre il verde anche girando a velocità diverse, incroci, girava. Mi fa, no, qui abbiamo dei sensori sui semafori, per cui se all'incrocio non ci sono auto nell'altra strada, automaticamente ti dà il verde. Dico, intelligentissimo. Ah, questo è il vero semaforo intelligente. Questo sì. Come che no? Mi sembra. Io non ho la patente, però è una cosa alla quale ho pensato molto spesso, anche andando in motorino, andando di notte. Ci sono dei momenti in cui di macchine non ce ne sono, e quindi uno sta lì, sta un minuto e mezzo, magari al freddissimo, ad aspettare il verde quando non c'è nessuno, perché dici, vabbè, con rosso non passo. Se ci fossero questi sensori, se non c'è nessuno all'incrocio, diventerebbe verde immediatamente. Ho capito bene? È così che funziona, immaginatevi dal punto di vista ambientale miglioramenti e anche, diciamo, fluidità del traffico. A me è una cosa intelligentissima e non credo neanche che sia poi costosissima, nel senso, no? Questo non lo so, potrebbero già nascere così. Non so quanto mi viene il sensore al chilo, purtroppo. Grazie Gianni, comunque, grazie, buona giornata. Grazie mille, doppio lavoro per Gianni, ascoltatore e giurato al nostro Crowd Me Up. Lo diciamo perché così anche nei prossimi sabati attendiamo di avere giurati popolari. E allora attendiamo anche che torni presto mercoledì, soprattutto il secondo mercoledì del mese, quando si va al cinema a 2 euro. Settimana scorsa è successo, come è andata? Finirò da Mastro Ianni, Magni Manfredi Trovaioli, la Lollo Brigida. Vabbè, oggi al cinema non si trovano più tutti questi nomi, ce ne sono altri diversi, c'è Muccino per esempio e Campania Cantande, mi sto veramente incartando. Ma come esiste Mirella, il cinema del sé, però se ah sei, eh? Sì, è bellissimo. Chissà però se il cinema del sé rientra nello sconto del cinema. Ma sì, certo. Today, l'iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali e che è andata, sembrerebbe, non bene, benone. Ne parliamo con Luigi Cuciniello, che è presidente ANEC, l'Associazione Nazionale degli Esercenti Cinematografici. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo dal dato crudo, nudo e crudo, numeri alla mano. Com'è andata mercoledì scorso? Bene, le presenze in una giornata sono un numero, direi, importante. Ci siamo persi il numero, però c'è stato... 600.000 presenze, per l'esattezza credo siano 598.460, se vogliamo essere... Quante in più, però? Esatto, solitamente invece in un mercoledì diciamo normale... Abbiamo, oltre che triplicato, l'aumento è stato di 159%. Esatto. Quindi un numero importante. Più 159%. Tipo il debito pubblico italiano da un anno all'altro, praticamente. Siamo a quei livelli lì. In positivo, però. E questa volta in positivo. Ve l'aspettavate? Beh, diciamo che noi le ultime promozioni che avevamo realizzato al cinema con Cinema Days, appunto, nell'anno passato, in ottobre e in aprile, ci avevano dato segnali molto interessanti. Però allora l'offerta era articolata in modo diverso. Per 4 giorni consecutivi a 3 euro. Sì. Questa volta, d'accordo con il Ministero, abbiamo deciso di puntare su una giornata unica al mese, secondo mercoledì, come avete detto prima giustamente, a 2 euro, quindi abbiamo abbassato ulteriormente il prezzo. E questo... per andare incontro al pubblico che al cinema abitualmente non va. Certo, ma mi scusi, io sono felicissimo di questa iniziativa, di cui ne abbiamo anche reso conto, mi sembra molto bello, sono anche felicissimo che sia andata benissimo, strabenissimo. La vera domanda che mi faccio è, ma non è che semplicemente il cinema costa troppo? Perché se basta fare un mercoledì in cui costa meno, improvvisamente le sale si riempiono tutte, addirittura ho letto che l'incasso in generale comunque è cresciuto del 3%, non si potrebbe forse pensare che il cinema costa troppo, che troppe persone non se lo possono permettere, che se il cinema costasse 4,70 euro, 5,10 euro, forse anche 5,40 euro, le sale sarebbero piene. Guardi, il cinema quando c'erano le amate odiate lire costava circa 13.000 lire, oggi costa in media 6 euro durante tutto l'arco della settimana, perché naturalmente c'è un prezzo diverso per ogni giorno, per ogni fascia oraria. È l'unico, mi sta dicendo che è l'unico prezzo che non ha avuto nessuna inflazione come tutto il resto. La ringrazio. No, no, no, prego, prego. Io. Prego, sì, prego. Sì, ha ragione, se è così, ha assolutamente ragione. Però forse sono le multisala, tutte le, quando inizia il 3D, perché io poi sento invece di amici che hanno magari due figli, sono in quattro e vanno al cinema, tra una roba e l'altra spendono. Invece qualche io penso... volta... Sì, ci sono diciamo delle proiezioni o degli eventi speciali che hanno un costo un po' differenziato come il 3D, che comunque dagli 8 euro del weekend può salire a 10. Senta, mi svela già però... siamo a 10 e sono diciamo 20.000, anzi 19.360 lire. Mi svela però un particolare che probabilmente ci è semplicemente sfuggito, che chi mette la differenza tra i 2 euro e i 6 euro o gli 8 euro del biglietto completo? Ce lo mette lo Stato, ce lo mettete un po' voi o una compartecipazione? Nessuno, nel senso che è un accordo con gli esercenti, con le sale cinematografiche, con i distributori e i produttori, sì. E quindi in quel giorno naturalmente l'incasso viene diminuito, cioè viene diviso per quello che è sperimentato, però, appunto, è un abbassamento del prezzo, punto e basta. È un abbassamento del prezzo, è un, come dico io, non una svendita, ma una promozione, un investimento per far conoscere il cinema in sala, che dimostra tutte le volte che facciamo questi test che è ancora un grande richiamo, che probabilmente appunto deve essere anche comunicato in maniera più efficace, e in questo caso l'importanza della presenza del Ministero è stata utile per creare una campagna. Senta, perché a noi stanno a cuore anche le statistiche, no? Sono divertenti. C'è qualche differenza geografica, territoriale? Chi è che ha aderito di più al nord? Questi dati li stiamo un po' analizzando. Abbiamo i primi dati, ci dicono che, per esempio, c'è stato qualche esplosivo clamoroso sia al nord che al sud, da Milano a Foggia. In media devo dire che però c'è un trend nazionale abbastanza omogeneo, un successo abbastanza omogeneo. In qualche caso ci sono stati variabili magari meteorologiche o di altro tipo che hanno condizionato la frequentazione, però direi che è un trend abbastanza omogeneo. In questi giorni stiamo un po' analizzando perché vogliamo capire proprio le differenze anche delle singole città, delle singole regioni, e tarare meglio la comunicazione nelle prossime edizioni. Benissimo. Aspettiamo il prossimo secondo mercoledì del mese, che ahimè purtroppo è solo lontanissimo. Mamma mia. Ecco, quindi mi raccomando, abbiamo riscoperto il piacere del cinema in sala, non abbandoniamolo per un mese. Esatto, assolutamente. Fatele più spesso o abbassate tutti i prezzi tutti i giorni. Carlo insiste, tanto un martello. Poi si guadagna vendendo i popcorn, le frittelline, le caramelle, che quelle rimangono e ci sono comunque. Grazie cuciniello, dobbiamo chiudere perché c'è il giornale radio. Grazie ad Andrea Piana, Claudio Schiattone, Carmelo Loricella. Noi ci sentiamo domani alle 8.30. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini e chi ci ascolta in podcast. Ciao.